manco male partita. Oh, guarda, guarda che bella gioventù, che belle donne. Fra tanti per mia fe vi sarà qualche cosa anche per me. Cari amici, buongiorno, seguitate a stare allegramente, seguitate a suonare. Oh, brava gente, c'è qualche sposalizio? Sì, signore, e la sposa sono io. Me ne consolo. Lo sposo? Io per servirla. Oh, bravo, per servirmi. Questo è vero parlar da galantuomo. Basta che sia marito. Oh, il mio marito è un uomo d'ottimo cuore. Oh, anch'io, vedete, voglio che siamo amici. Il vostro nome? Servina. E il tuo? Masetto. Oh, caro il mio Masetto. Cara la mia Zerlina. V'esibisco la mia protezione. Leporello, cosa fai lì, birbone? Anch'io, caro padrone, esibisco la mia protezione. Presto, va con costor. Nel mio palazzo conducili sul fatto. Ordina che abbiano cioccolata, caffè, vini presciutti. Cerca di divertir tutti. Mostra loro il giardino, la galleria, le camere. In effetti fa che resti contento il mio Masetto. Hai capito? Ho capito. Andiamo. Signore. Cosa c'è? La Zerlina senza me non può star. In vostro loco ci sarà Sua Eccellenza e saprà bene fare le vostre parti. Oh, la Zerlina è in mando un cavaliere. Va pure, fra poche l'amico verrà. Va, notte mie, nelle mani sono io, un cavaliere. E per questo? E per questo? Ed io cospetto! Olà, fine alle dispute! Se subito senz'altro replicare non te ne vai, Masetto, guarda ben, ti pentirò!